Con noi Francesca Zanni per parlare dello spettacolo Tutti i miei cari, che è in scena dal 23 al 28 gennaio a Roma, al Teatro Studio Argo. Francesca, ben ritrovata. Ciao, ciao, grazie, ciao a tutti. Racconti dall'inizio, dall'idea iniziale, poi lo sviluppo di questo progetto? Allora, questo progetto in realtà nasce tanti anni fa, perché insieme a Crescenza Guarnieri, che è la protagonista dello spettacolo, e oltre ad essere una mia carissima amica, è una delle attrici più brave che io conosca, e quindi voglio sempre lavorare con lei. Già tantissimi anni fa noi facemmo insieme nel 2000 il mio primissimo testo che si chiama Tango e dopo poco tempo lei mi disse: "Ma guarda, io ho un'idea, ma perché non provi a scrivere qualcosa su questa poetessa, Anne Sexton?" Io non la conoscevo allora, e però non era il momento, nel senso che io non sentivo qualcosa che mi chiamava di questa figura, questa donna così tormentata, conoscevo poco la sua vita. E poi Crescenza mi fece leggere la sua biografia e iniziai a leggere le sue poesie, piano piano insomma mi sono appassionata a questa figura e dopo 15 anni dalla prima volta in cui ci eravamo dette "ma perché non proviamo a fare uno spettacolo su questa poetessa", un paio d'anni fa ho iniziato a scrivere e quindi insomma è stato un rincontro così dopo tanto tempo, e evidentemente i tempi erano più maturi anche per me, sentivo che queste tematiche erano molto più vicine forse alla mia sensibilità del momento, e quindi ho provato a scrivere della vita di questa donna non soltanto attraverso le sue poesie, nel senso che lo spettacolo non è assolutamente un reading di poesie di Anne Sexton, ma le sue poesie, quando ci sono degli stralci messi qua e là dentro lo spettacolo che racconta però proprio la sua vita, che è in realtà molto vicina poi alla vita di oggi, non solo delle donne, ma insomma di tutte le persone che oggi si sentono frustrate, inadeguate, inadatte a quello che il mondo si aspetta da loro. Ti chiedo, Francesca, cosa ha contraddistinto la sua esistenza e la sua opera? Ma lei era, secondo me, una donna nata nel momento sbagliato, nel senso che era troppo avanti per l'epoca in cui era nata, e, a cavallo tra gli anni 50 e 60 in America, tra l'altro a Boston, quindi in una città insomma borghese, in una famiglia borghese, e che voleva la società borghese, insomma, in cui lei appunto era nata e cresciuta, voleva da lei quello, si aspettava da lei quello che facevano tutte le altre donne, cioè che fosse una brava moglie, una casalinga, una brava mamma. E lei era assolutamente inadeguata, si sentiva proprio infelice in questo ruolo, e probabilmente anche perché aveva poi un disturbo effettivamente psichico, non si sa esattamente cosa, lei era stata diagnosticata poi. Forse era bipolare, forse schizofrenica, non si sa, ha avuto molti ricoveri anche in manicomio, e anche da molto giovane, e quindi uno dei suoi psichiatri le consigliò di scrivere delle poesie come terapia. E lei, che era una casalinga appunto frustrata, depressa, che si rifugiava nell'alcol e negli psicofarmaci, iniziò a scrivere queste poesie e arrivò a vincere addirittura il premio Pulitzer per la poesia. E lei di se stessa pensava appunto di essere un bluff, perché non aveva neanche finito le scuole superiori, addirittura aveva vinto questo premio per la poesia. Quindi è una figura di donna molto tormentata, che però è stata per esempio quella che ha inventato i reading poetici con la musica. Lei andava in giro a leggere le sue poesie, si portava dietro questo gruppo rock di ragazzi che suonavano mentre lei leggeva le poesie. Quindi, insomma, era veramente, secondo me, una donna molto avanti rispetto ai suoi tempi, e questa cosa però a lei la faceva stare molto male, perché lei si sentiva assolutamente fuori posto, non riusciva a stare bene da nessuna parte. Francesca, come avete immaginato tu e Crescenza la messa in scena? Guarda, la regia non è mia, è di Francesco Zecca, e io gli ho lasciato completamente campo libero, nel senso che l'ho lasciato proprio libero di lavorare sul mio testo, e quindi ovviamente poi con Crescenza come lui meglio, insomma, pensava. E io per la prima volta ho affidato il mio testo ad un altro regista, perché poi, come tu sai, insomma, io di solito quando scrivo dirigo anche le cose che Certo. scrivo. E invece devo dire che è stata una bellissima esperienza. Francesco è riuscito veramente a rendere vive le mie parole e ha costruito per prescenza veramente una scena, magari non dico niente perché se il pubblico poi la verrà a vedere, Sì. molto interessante, che racconta proprio, cioè la scena, per quanto semplice, racconta proprio esattamente gli stati d'animo di Anna. Senti, questa tappa a Largo rappresenta una prima e poi che succederà per il resto della stagione proprio su questo vostro lavoro? Guarda, come sai, questi lavori sono sempre una scommessa, nel senso che si testano, si provano una settimana e poi, sai, a parte poche date che magari si riescono a fare in giro, ci si aspetta sempre che succeda qualche piccolo miracolo. Purtroppo non è così frequente e noi speriamo ovviamente di portarlo in giro anche altrove. Sicuramente ci sarà una tappa a Parigi, perché penso che da Parigi sono molto più interessati che dal resto d'Italia, quindi andremo a fare probabilmente ad aprile lo spettacolo in italiano a Parigi. A questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più su questo lavoro e sulla vostra opera in generale? Allora, sicuramente sì, sulla pagina Facebook dell'Argo, quindi Argo Teatro, Argo Studio, si trova tutto quanto, anche sulle staffette Ufficio Stampa Promozione, che è il mio ufficio stampa, Maria Luisa Giordano e Monica Minna, quindi sulla loro pagina Facebook trovate tutto, e questi due, insomma, riferimenti. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con tutti i miei cari di Francesca Zanni, con Crescenza Guarnieri per la regia di Francesco Zecca al Teatro Studio Argo qui a Roma dal 23 al 28 gennaio. Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie a te, ciao Federico, ciao a tutti, Ciao. ciao.